Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, due informazioni di servizio. La prima è la mail unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda è il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, come sapete, io non amo trattare casi personali, perché certamente non siamo una buca delle lettere che può risolvere il caso singolo. Spesso poi i casi sono, ahimè, ripetitivi, gli stessi nei confronti degli erogatori, dei grandi servizi pubblici. Li prendiamo in considerazione quando sono ovviamente clamorosi, quando possono rappresentare, questi casi singoli, in realtà una moltitudine di casi simili a quello che ci viene presentato. Allora, oggi siamo, diciamo così, in una zona borderline, potremmo definirla, a cavallo fra un interesse personale, ma in realtà non è soltanto così, perché parliamo di una, diciamo, scarsa comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione, quando c'è di mezzo un bene, diciamo così, che dovrebbe essere di tutti e tutti dovremmo tutelarlo, vale a dire l'ambiente, che poi ambiente vuol dire anche ovviamente rispetto, decoro e salute. Ci troviamo in questo momento in cui vi stiamo parlando a Sutri, quindi siamo in provincia di Viterbo, siamo nel Lazio, in una zona splendida del Lazio, e accade che in una area che si chiama Colle Diana un nostro radioascoltatore ci ha fatto presente che viene devastata dalla cementificazione, dall'abusivismo edilizio, da piani di sviluppo senza limiti, senza confini, senza ritegno, oserei quasi dire. Ed allora noi abbiamo chiamato questo radioascoltatore che ci ha scritto per parlare della sua situazione, e ovviamente abbiamo anche il sindaco che viene chiamato in causa. Allora, intanto cominciamo con il salutare il nostro radioascoltatore, che è Luca Tutino. Buongiorno Tutino. Buongiorno. E poi, per avermi chiamato. Grazie a lei, e salutiamo anche, diamo il buongiorno al sindaco di Sutri, Guido Cianti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora Tutino, partiamo da lei. Lei ci ha scritto una lettera in cui io ovviamente vado per allegorie, per immagini paradossali, in maniera tale che così almeno tutti possano capire. Un bel giorno si sveglia e si rende conto che accanto a casa sua c'è un cantiere con grandi scavi in vista. Sì, diciamo così, a un certo momento ci siamo accorti, io e i vicini ci siamo accorti che gli scavi venivano allargati in maniera molto maggiore di quanto si potesse pensare. Abbiamo chiesto al comune una fotocopia del progetto e del regolamento edilizio, perché questa è una zona protetta, una zona residenziale nel cuore della Tuscia, nel verde, e quindi c'è un regolamento che noi pensavamo di conoscere, ma non sembrava corrispondere con i lavori che venivano. Ecco, lei perché dice un bel giorno, come dire, il comune si sveglia e viene a fare questi lavori che non avrebbe dovuto fare? In base a quali conoscenze, voglio dire, voi avete capito che c'era qualcosa che non andava? Se secondo voi c'è qualcosa che non va, ovviamente. Sono venuti vicini da me, una famiglia con un geometra, un architetto, c'era un avvocato, una famiglia, sono venuti da me perché pensavano che io costruissi. Mi chiedevano come mai lei sta seguendo delle fondazioni così grandi su un lotto così piccolo, quando il regolamento prevede che le costruzioni siano limitate. Cioè, erano loro a propormi il problema. Quando si è visto che non ero io che costruivo, insieme ci siamo rivolti al comune per chiedere informazioni sul progetto in esecuzione, per capire come era possibile che gli scavi fossero così grandi. Ecco, allora riassumiamo un pochino. Abbiamo detto che ci troviamo in un'area molto bella del Lazio, in una area verde nella Tuscia, veramente una zona spettacolare. Vi consiglio anzi di visitarla, e lei ci sta dicendo che vi siete accorti che queste fondamenta, queste costruzioni correvano il rischio di deturpare l'ambiente. Prima di passare al vostro rapporto con il comune, le chiedo, voi avete fatto anche un esposto, avete presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Viterbo e siete entrati in contatto anche con la Regione Lazio, se non sbaglio. Sì, esattamente. Allora, andiamo per gradi. Procura della Repubblica di Viterbo, che cosa vi hanno detto? C'è stato un seguito al vostro esposto, oppure avrà la solita trafila di 25.000 anni prima che qualcuno vi dia una risposta? Beh, la Procura, sì, ai suoi tempi, purtroppo i tribunali lavorano con i mezzi che sappiamo, sono lenti, insomma. Certo. Stanno indagando, mi hanno confermato che stanno procedendo con le indagini, che tra qualche mese giungeranno a una conclusione, ma non possono naturalmente... Ecco, se così fosse, ovviamente brindiamo insieme. Invece la Regione Lazio? La Regione Lazio mi ha fatto sapere che hanno preso molto a cuore il problema, perché lo considerano, in base ai dati e alle nostre osservazioni che loro hanno verificato sui disegni e su tutti i documenti, lo considerano una violazione molto grave, e mi hanno più volte assicurato che sarebbero intervenuti in maniera definitiva entro un termine molto breve. Poi questo termine si è spostato perché erano altre urgenze, ma ancora adesso sembra che la prossima settimana convocheranno il comune e i proprietari. Ecco, mi scusi, ma lei quali santi in paradiso ha per ricevere tutte queste risposte così veloci dalla procura, dalla regione? È un ufficio che si chiama Ufficio Urbanistica e Lotte agli Abusi Edilizi della Regione Lazio, di cui direttore Patrizia Colletta. Naturalmente, a furia di telefonare, ho familiarizzato un pochino con le persone che ci lavorano, ma sempre per telefono e come utente. Poi anche la mia vicina, che è un architetto, ha telefonato. Ho capito, che va bene, va bene. È andata lì perché per lavoro va in regione, e l'ha anche incontrata, ma non è nessun santo. Ok, ecco, una risposta rapidissima a questa domanda. E dal comune che risposte avete ricevuto? Purtroppo nessuna, cioè noi abbiamo fatto una dettagliata contestazione più volte, oralmente, proprio di scritto il 3 luglio, poi di nuovo il 27 luglio, con tutta la denuncia alla procura, e il comune avrebbe dei tempi di risposta. Io non ho ricevuto nessuna risposta scritta, e anche oralmente soltanto delle cose molto vaghe, molto generiche, non ho avuto una spiegazione neanche oralmente. Va bene, allora intanto io ricordo a tutti, visto l'orario in cui noi andiamo in onda, che tutti poi possono scaricare via podcast tutte le puntate che registriamo. Basta andare sul nostro sito www.radio24.it e andare nell'archivio della trasmissione Un Abuso al Giorno. Sindaco Cianti, lei insomma ha sentito questa dettagliata denuncia del suo concittadino, e pare che la Procura della Repubblica si sta interessando, la Regione Lazio addirittura ha un ufficio che risponde, questo mi sembra quasi una sorta di miracolo da parte della pubblica amministrazione che risponde, meno male, ovviamente io sto scherzando, e voi invece siete un po' inadempienti, come la mettiamo, Sindaco? No, non mi sembra proprio, insomma, anche perché proprio per questo fatto, cioè se un cittadino poi si muove con la Procura della Repubblica, tutti devono sapere che quando ci si muove con la Procura della Repubblica il comune poi è costretto a rispondere alla Procura della Repubblica. Ecco, ma perché è costretto a rispondere alla Procura, non a un cittadino che, come lei ha visto nella lettera? Il caso, io adesso da sindaco ovviamente non sono il tecnico, qui magari il tecnico risponderebbe meglio, ma certo, se il cittadino fa delle richieste all'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico credo che abbia ritenuto opportuno dare una risposta esaustiva, dicendo che comunque siamo a Collediana, stiamo in una lottizzazione regolarmente approvata, stiamo in una concessione edilizia regolarmente data secondo l'ufficio tecnico, ovviamente. Dopodiché qui mi pare che si va a contestare non la concessione rilasciata, ma come si interpreta il regolamento edilizio di Collediana approvato nel 1966, adesso 68, quello che... Quindi lei dice, allora, lei non è messo in dubbio, non è messo in dubbio, diciamo così, l'autorizzazione, ma è il modo in cui si interpreta questo regolamento. Si è data l'autorizzazione, allora qui si mette in dubbio 30 anni di storia dell'edilizia di Sutri e di Collediana. Non arriviamo a 30 anni perché già facciamo fatica a seguire, ecco, allora, un anno. Quindi, ecco, poi insomma le risposte all'ufficio tecnico, insomma qui si parla che le modalità poi mi hanno raccontato che sono state un po' particolari, che insomma il signor Tutito andava a cercare risposte, ma poi addirittura andava a cercare risposte con il registratore in tasca, insomma ecco quindi secondo me è stata messa un po', ecco, in una situazione del comune cattivo che non risponde. Non è assolutamente vero. Però mi scusi, Sindaco, se un cittadino arriva ad avere un registratore in tasca, francamente non ci trovo nulla di male. Guardi, lo dico francamente, lo farei anch'io. Lo farei anch'io, perché obiettivamente se uno non ha risposte le prova tutte, non c'è nulla di male. Perché vuole criminalizzare un atto di del fatto, genere? Il grosso sta nell'interpretazione di un regolamento edilizio di Collediana, mi pare aver capito, una delle due o tre cose contestate in quella concessione edilizia. Quindi contestazione in una parte del regolamento di Collediana, dove il comune di Sutri dal 1980 rilascia concessioni in questo senso. Ho capito. Quindi mi pare di capire che lei dica, noi ci sentiamo assolutamente tranquilli vada pure avanti la Procura della Repubblica nell'aver interpretato quel regolamento così, dagli anni 80, insomma. Quindi se c'è stato fatto un danno tra virgolette che qualcuno rileva, è su tutto il territorio di Collediana, e quindi a questo punto c'è una ragione sicuramente, perché dall'80 si rilasciano così concessioni di diritti. Va bene, allora io ringrazio il sindaco Cianti e mi rivolgo al nostro investigatore privato Luca Tutino. Quindi lei è andato in giro con il registratore, ma a questo punto cosa farà? Poi prenderà una telecamera o si accontenta di... Una cosa semplice, il punto principale è che l'edificio è alto 7,5 metri, è distante dal confine 5 metri e il regolamento dice l'altezza non può essere superiore alla distanza dai confini. Inoltre l'altezza del terreno di riferimento è stata presa prendendo a riferimento il terreno confinante, che è più alto di 0,5 metro, per cui l'altezza è stata ancora alzata di un altro 0,5 metro. Sostanzialmente vengono costruiti dei palazzetti di 3 piani alti 8 metri in una zona dove l'altezza massima è 7,5 metri e in un punto dove l'altezza massima è 5 metri. Questo è chiarissimo, non c'è nessuna interpretazione. Va bene, allora... Io vado con il registratore perché effettivamente sono un musicista, mi trovo lì, so che non mi risponde, c'è il registratore in tasca, l'ho anche acceso apertamente, non trovo che non ci sia... No, ma infatti non c'è nulla di male, io ripeto, quando uno deve tutelare i propri diritti, tutti i mezzi leciti ovviamente sono benvenuti. Allora, ringrazio il nostro radioascoltatore, capiremo che cosa dirà la Procura della Repubblica di Viterbo e l'ufficio antiabusi della Regione Lazio, quindi seguiremo il caso, andremo a vedere come sarà andato a finire. Grazie al sindaco di Sutri Guido Cianti, in regia Paolo Corleoni e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.